all'altra ci sono 20 centimetri, non di più, hai capito? Ci sono, su via due gambe che piazzi ci sono 20 centimetri da una parte all'altra, perché c'è il vuoto? Quando sei sopra al tetto, ti deve mettere seduto, non ci scendi giù, perché c'hai un metro e mezzo di vuoto, non mi ricordo male, non è così Giuseppe? Fra, non hai sentito niente di quello che ha detto Giuseppe, avanti. Ha detto cappa, c'ha ragione Alessio, quello che ha detto Alessio c'ha ragione. Che ignoranza in frequenza. Di altezza, capito? Dunque, sono viene male per fare questa cosa. È giusto una cosa così provvisoria la posso piantare, ho capito qua, in quel muro là. Facendo quello che ho detto Alessio, dall'altra parte, buttiamo lì e poi il capo ci farà passare tramite volontaria, vediamo un po' come riuscire a farlo, capito? Oh, scusate, Giuseppe, ma un terrazzino, ce l'hai tu un terrazzino? Negativo. Non va niente un balcone, non va niente. Dall'altra parte c'è un terrazzino, però oggi è sempre il solito punto, devo far passare l'antenna sopra il tetto, perché ma sopra il tetto non si può salire perché ci vuole la scala aerea, capito? Ah, tu, io, c'è qualcuno in propagazione, sul 45 a volte entra, e c'ha una 2001, un'antenna di macchina, una 2001, su un foglio d'acciaio di un metro quadro. Avvocato, a centro ci ha messo questa 2001. Tu devi vedere come arriva qua in Sardegna questo con questa 2001. Su un metro quadrato, un metro per un metro, un foglio di lamiera, a centro d'acciaio, ci ha messo l'antenna la 2001 e l'ha messa nel terrazzo. Tu devi vedere come arriva questo qua. D'alluminio, vediamo un po' cosa riusciamo a fare con Alessio, vediamo un po', prendiamo questo alluminio e poi facciamo la modifica, vediamo un po'. Aspetta, così rivediamo i problemi che ci sono, se no non ci capiamo. Allora facciamo così, domenica mattina ci vediamo tutti verso le 9, 9 e mezzo, andiamo a casa di Giuseppe e vi faccio vedere dove si deve fare il lavoro. E poi, cioè, su una testa sola, tre teste, cambiamo le cose e vediamo di fare qualche cosa. Vediamo cosa si può fare. E lì è un casino, in quanto il terrazzo purtroppo è chiuso, lui, hai capito? Un terrazzo chiuso, fuori dal terrazzo, dove c'è la veranda, c'è un metro di tetto e poi ci scendi giù, fatta a tegole. In quel metro di tetto c'è un pezzo di muro che è fatto a forma di triangolo e ci sono 20 centimetri solo, per poterci mettere due gaffe, c'è alto, hai capito? Allora, come se sono messo un'antenna piccola, ma figura questo muretto che c'ha da 20 centimetri, si vede, dà fastidio a altra gente, si vede una cosa che dà fastidio, che si vede che è brutto, se metto una cosa, un'antenna lì. No, non figura, il problema sai cos'è? Che non puoi ancorare niente, se tu ancori un'antenna, una mantova uno, le gaffe col pano te ne scendono giù, perché il muro è fatto a forattini. Hai capito cos'è il problema? È troppo stretto il coso da una gaffa all'altra, è troppo stretto, quindi se tu metti un palo e fa un colpo di vetro di mezzale, se non si trova lui nell'antenna, davanti alla ferrovia se la trova. Allora, non fai come ti ho detto io, un metro quadro di coso si può mettere d'acciaio, si può mettere lì, e gli metto un'antenna che ti sto dicendo io, anche una 2001, e va alla grande, va lo stesso, non è come la mantova, però c'è il rischio che te ne cada in terra e tutto quanto, ci metto una 2001 con un metro quadro di lamiera, d'acciaio però la devi mettere, almeno una 2 mm. La nulla mi hai detto Gigi. Cosa? No, dico, la 2001 è un'ottima antenna che costa 70 euro, io credo che il problema sia appunto spendere il meno possibile e avere il massimo guadagno. Aspetti, nel 2001 gliel'ho regalata io a Giuseppe Giannustino, gliel'ho regalato io. Mi serve solo 24 euro di basetta, perché la basetta sua originale costa 24 euro, ho chiesto io, l'ha posato. Lo stivo nel 2001 gliel'ho regalato io, e ci siamo. Ma inoltre che li mettiamo con l'antenna, quando dura due o tre giorni, come del genere, e poi non esce più. Hai capito? Perché non c'è il muro che il cemento armato, quello che deve passare tutto preparato. Dice lui, aspetta, sono anche per sorso, e poi rotovers e basta. E la parte di sassa, è un'altra parte, è chiusa. 2 mm. E ti dico che spara alla grande, perché questo l'ho già provata e fatto io. Ho messo una tambolana tu. Una tambolana, metti una base magnetica sopra la tambolana in campagna e poi mi torni la risposta. Sì, ma tu hai ragione, a parte che vi siete sovramodulati. Vi stavo dicendo, sì, adesso però mi ha detto Alessio che una 2001 ce l'ha Leoncino. E allora l'unica cosa è fare quello che stai dicendo tu, assolutamente sì. E che break! Hai capito Leoncino? Tu una prova devi buscarti un foglio di lamiera. Oh, poi provvisorio puoi provare una cosa, anche un pezzo di foglio zingato, però che sia almeno un metro quadro, almeno una cosa lì, e gli fai il foro, provare, se poi vede che rende, allora te lo compri in acciaio, in acciaio è una cosa definitiva, hai capito? È fatta definitiva, che non mette lucido e va bene. Allora te la metti una 2001, capito? Una 2001 va bene, secondo come è posizionata, spara a me, spara benissimo, Ciao, ciao, G. Sì, ma dimmi dove sono questo foglio di acciaio, indirizzami dove andare a comprarlo. Davanti dove lo compri? Se dici prima quanto lo fa pagare, un metro quadro di lamiera d'acciaio, ti fai fardare. E fa entrare il break, capito? Un metro quadro di lamiera d'acciaio, digli quanto mi può costare un metro quadro almeno da 2 mm di lamiera d'acciaio, ti dice ti costa sotto, ecco. E tu lo buono, e ti fa vedere, è come se sopra la capota di una macchina, l'antenna piazzata, la stessa cosa, avanti il break. Un salutone ai Luigi Vulcano e anche a tutti gli altri. Volevo dire, come mi senti Luigi Vulcano a Ottava? Bene, benissimo a tu. C'è silenzio, voglio dire, non c'è QRM, può quasi niente. Non sento rumore, aspetta un attimino. C'è un rumore di... che non sia quel condizionatore, stia facendo anche qualche rumore strano. Scusate un attimino. Bombolo, scusi. Bombolo. Avanti. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Volevo sapere come mi ascoltavi. E come al solito, sei un Santiago di 8-9 e una radio di 5. Da Ossi com'è? Da Ossi invece, un Santiago sì, radio 3. Vabbè, va abbastanza bene, non sto provando un altro apparato. Ok dai, promosso. Ok dai, continuate, buonanotte a tutti, dai, sono entrato giusto per vedere i risultati, come va questa radio. Ottimi abbondanti, tienila così che va bene. Buon QRT, buon 144 quando lo farai, e se rimani in QRX, buon QRX. Avanti, buon pugno. Io stavo anche a tu, saluto il presentato, Santiago 564 con termine 9, quindi sarebbe in pratica 7-8 con l'altro. Volevo dire, questo metro quadro di cosa stai dicendo tu? Lui l'ho visto io nelle palazzine della cementeria, c'era un metro quadro giusto in acciaio, però era saltato nella lamiera. Addirittura al petto, e quindi funzionava benissimo, risultava una bomba. Il problema, per me non va bene, perché non è andato bene niente, addirittura gli ho dato il bazooka. Tutti i ricordi che c'avevo il bazooka piazzato, uscivo con quel mezzo di controllo, piazzato qua nel terrazzino, che era sotto l'antenna che c'ho, e uscivo a forza. L'ho messo in casa sua, l'ho sollevato di 3 metri e non usciva l'accidente. Quindi c'è qualcosa che non va lì, o il cavo, non lo so, quello che è, comunque no, c'è qualcosa che non va lì. Nella studiale, è peggio della studia della terra mia. Non lo so, la verità. Comunque, la troppo di breve gliel'ho data. L'unica cosa è che se riesce a recuperargli la bazzetta, perché costa 24 euro la bazzetta, l'ho detto io, l'ho fusato, io non ne avevo 24 euro a comprargliela. Gli ho dato lo stilo e gliel'ho regalato. Quindi, se riesce a buscare la bazzetta della tubo 2001, lui è a posto, perché così con la bazzetta normale non è che quella c'era molto grande con l'antenna, non è che c'ha problemi stazionari. Non si adegua. Ascolta un attimo, ascolto informativo. Un'antenna come la Turbo 2001 rende quanto un'antenna che si usa per casa? No, negativo. Però se è posizionata sopra il tetto e messa bene, Antonio, io ne sento uno che parla in propagazione, che lo sento da su dal continente, e, qua, e lui ce l'ha sopra il tetto, un metro quadro di lamiera in acciaio. Deve essere un metro quadro, però non di meno, un metro quadro e messa a centro la 2001, ancorata bene questa cosa, te la metti sopra le cementi, fai quel cavolo che ti pare da bolloni, ecco, lui ce l'aveva sopra il tetto, qua arrivava a pompa, sai cosa vuol dire a pompa? E non c'aveva una... è la stessa cosa che quando parli dalla macchina, dal camion, che parlo io dal camion, ecco, è un metro quadro, un metro quadro. Un metro quadro, io addirittura la 2001, l'antenna, la 5000, io ce l'ho su un pezzo di staffa, è un 40 al ferro, però se tu la metti al cappotto, nella cappotta va più della staffa. Perché va più della staffa? Perché riflette sopra la lamiera, deve riflettere sopra quella lamiera lì, deve riflettere, non so, i crudi che scendo sta, devono riflettere sopra quella lamiera lì. Come riflette, ecco che ti dà il massimo del massimo quella la 2001. Hai capito? Sopra un metro quadro di lamiera in acciaio, tu la metti a centro e lì riflette proprio, rispecchia sopra quella lamiera lì e ti dà il massimo del massimo. Se tanto non gli metti una cosa da parte che la impedisce, ma anche se gli metti una cosa vicino, se un palazzo vicino funziona. Ascolta un attimo, Antonio. Aspetta un attimo, io stavo dicendo, non sono d'accordo con Gigino, nel senso che lui dice che non è al pari di un'antenna normale, e forse la supera anche, perché la Turbo 2001, stavo guardando sul catalogo, c'ha 8 dB di guadagno, 8 dB vogliono dire che se tu ogni dB lo devi moltiplicare per il numero di watt che stai uscendo con l'apparato, se tu esci con un apparato normale 8 vuol dire che 8 per 4, 8, 16, 24, 32 watt. Solo se sei liscio, se ci metti una scarpetta anche da 100 stai riuscendo con 400 watt. Sì, ma sto dicendo, non mi pare 8 dB, mi pare già 5, adesso non voglio commentare su questo, non mi ricordo, se tu lo stai guardando da qualche parte va bene, perché mi ricordavo 5 e mezzo, no, mi ricordavo io, adesso non mi vorrei sbagliare, dai. Ma come si dice, è al pari di uno 5 ottavi. Antonio, tu dovresti avere il catalogo della LEM, dagli uno sguardo. Adesso uno sguardo, ascolta un attimo, Antonio. C'ho la basetta, capito? Una basetta ce l'ho della 2001, ce l'ho. Antonio. Ciao. Antonio. E già. Ascolta, ma cosa ne pensi? Quell'antenna si può modificare? Adesso sto cosa, diciamo, buttando così alla... Arrivederci, non me ne frego, ma costruendo una parabola di una certa grandezza e al centro mettendo la 2001 in modo che era anche la possibilità di orientare questa antenna autocostruita, secondo te non potrebbe funzionare? Indirizzare non il piano di massa, ma bensì il positivo, il polo caldo, e così con la parabola non lo stai indirizzando, capito? Lo indirizzo, dunque alla fine non è fattibile. Non è che non è fattibile, diciamo che l'irradiazione del piano di massa, a parte che non è quello che fa la direzionabilità dell'antenna, mettiamola così, però un'antenna come quella a stilo è omnidirezionale. Per ottenere una direttiva che vuoi ottenere tu, io ho capito il concetto, ci avevo pensato anch'io, che è un po' un concetto ottico, tu utilizzi una parabola e cerchi di ottenere un fuoco che spari in una direzione a seconda di come la giri. però non è così, perché l'irradiazione del piano di massa è avviene in orizzontale, capito? Capito, dai, va bene. E come ti ho detto Antu l'altro giorno, guarda che era in camion qui a Ottave, quasi quasi sento più a pompa col camion che non dopo l'antenna di casa, ed ero in direzione di casa, non ero con te sto parlando Antonio, quando è a Matiro, quando è. Tanto si sentiva a pompa dal camion, con l'antenna, ed è un'antenna che è messa su una staffa, nel camion però, ecco, quella da casa è sopra il tetto. Ecco, quasi quasi si sentivo più forte in camion io che. E quando è avanti ieri mi sembra che non mi ricordo. Non stavo uscendo così forte poi. Eppure vedi, vuol dire, non lo so. Io sto dicendo che questa, ti sto dicendo un metro quadro di acciaio, e tu, ma se questo è in propagazione, tu sopra il tetto sta facendo cos'è che aveva il giorno? Non mi ricordo che farà, un presidente di Mafaietti, presidente. E ho cura 2001 sopra questo foglio di lamiera, e quello so che riflette, che fa rispecchia l'antenna, deve rispecchiare l'antenna per funzionare bene. E quando rispecchia non ti dà stazionarie, capito? Quando tu l'antenna la prendi con lo tiro giusto, tu la prendi la 2001, la metti sopra questo metro quadro, perché io ho già fatto queste prove, da anni, sono cose che ho provato io, le ho provate, la metti a centro. Non devi toccare né nulla, tu attacchi il cavo, attacchi il rosmetro e non c'ha nulla di stazionare, ma cosa vuol dire? Zero di stazionare. Attento ogni giro! E a dov'è? Ah, buono, non ci arrivo lì. Buonasera signore, ben seguito. Ciao Domè, certo che ci arrivi. Ti ho ascoltato tranquillamente Domè. Io sto ripartendo. No, come sta Urbia? Sentivo di un'altra Urbia. Ma voi che mettiamo le palmiere, arrivi due palmiere sulla da passivo. E tu arrivi di giorno a parte di giorno, noi partiamo di notte. È positivo, dai. Beato te che stai facendo il sud di casa, io invece niente, nulla. Lascia perdere quel discorso, che mi pare che i soldi non si fanno più. Siamo diventati sordi. È positivo, positivo. Ma stai operando, non è il solito, non è il magno quello lì, eh. Quello è un altro apparato, eh. No, questo qui è il magno. Magno, eh. Sembra un po' un tipo. Vibra un po' come il maio, quegli apparati lì. Ho sbagliato io, il maio, non è questo il maio. Ah, è il maio, in casa, non mi sembrava le 9 a me, scusa, eh. No, il maio, male, ero confuso io, il maio. Qua che ne capite. Dove sai che io ho le orecchie un po' fini su queste cose, capito? Mi sfugge, il maio è un maio, non c'è niente da fare. Pochi, ce ne sono, pochi, c'è un regno. È positivo, positivo. Beh, Barracuda. Dimmi. Invece, vedi, per far funzionare, siccome tu ce l'hai la 2001 ed è posizionata anche bene, anche se non è al centro capota perché la tua BM non lo prevede, se ci metti una scarpetta, sì, una fucilata con quella cosa. No, quello sì, la verità funziona molto bene. Ce l'ha mini turbo, sinceramente, proprio non ne vale neanche il nome. Per poter averlo preso il giorno, provato, e domani me l'ho fatta cambiare. E ti dico che funziona veramente bene. Comunque si potrebbe sperimentare come antenna, qualche piccolo esperimento si può anche provare a vedere cosa ne esce fuori. Le antenne che faccio arrivare io, Antonio, le antenne che faccio arrivare io devi vedere Antu, capito? Quelle che faccio arrivare io, le antenne, quelle sono antenne, ci vogliono soldi a comprare, costa più di una mantova turbo, non vedi più, quelle sono antenne, capito? Io ho fatto arrivare delle antenne che reggono 20.000 watt, capito Antu? 20.000 watt reggono, hai capito? Quindi a Radio Vaticana gliel'hai venduta tu l'antenna. Ma soprattutto adesso, a parte gli scherzi, dico questo, ma perché non ti ritiri come camionista e ti apri un negozio che fai chiudere Fusaro e la GBC per le persone che conosci? Secondo me c'è da fare soldi, eh. Sai, io con Fusaro ci ho parlato, io volevo un tipo di antenna qua, lui ha detto non mi interessa, io ho cercato questo contatto lì a Marrubio e tramite questo porta, io gli dico cosa portare e questo le porta, seguo i miei consigli. Qualcuno è arrivato lì anche da Milano, è andato lì, ha fatto il filmino, ha fotografato che ci sono queste antenne in esposizione e qualcuno ci ha fatto. Ricordi quello che mi ha fatto quel commento nel filmato, Andrea Brizzi, quello mi stava dicendo, facendo il commento, quello ha detto se tu lì non ci aggiungi consigliato, tu dici col cavolo le vendi quelle antenne, infatti c'è scritto così, queste antenne sono consigliate da Gigi Vulcano. Ascolta un attimo, ma poi alla fine tu non ti puoi mettere in società con questo? Sto dicendo, ma non è da me, se lì, tanto io, quelle antenne, io adesso ho fatto portare queste che hanno tutto l'avvolgimento in argento, ho fatto portare la 5000 Winson, la Winson ho fatto portare, sono stato sempre appassionato di un'antenna americana, è come un fondo di bottiglia, sotto è grossa, la carica di sotto è come un fondo di bottiglia, se tu vuoi vedi quell'antenna rimane sbalordito. Rimane, tu devi sentire, il giorno l'ho provata qua, l'ho messa sopra la cappotta, sopra una base magnetica, l'ho provata e non mi ricordo che c'era, tu devi vedere la radio che fa quell'antenna lì, quella 5000 turbo, e io ho una 5000 turbo in camion, attenzione, io ho una 5000 turbo, non ho una 2001, io ho una 5000 turbo in camion, capito, non ho un'antenna così, ho una 5000 turbo io, e a casa ne ho, ho la Avant, sono tutte antenne che cosa... sono in circa sui 140-150 euro l'una, costano queste antenne qua, capito? Sono antenne che non ti danno soddisfazione. Io questa 5000 turbo qua in Sardegna non c'era, non esisteva, io sono riuscito a scoprire dove la faccio. Noi in Sardegna non abbiamo nessun contatto, nessun negoziante, nessuna rivendita che si serve da noi. E loro non potevano, me privato, veramente sono negozianti. Allora io sono andato da Fusaro, ho parlato con Fusaro e lui dice no, non c'è più vendita di questi apparati, di queste cose, quelle e quell'altro, e niente. Allora siccome stava portando qualcosa a questo di Marrubio, ho parlato con questo qua, gli ho dato l'indirizzo, gli ho dato tutto, gli ho fatto portare quello che un po' interessava a me. Infatti ogni tanto l'ho detto, ho fatto portare tutte quelle robe per togliere tutti i rumori dalle vetture, che è una specie di scatoletta che produce il capo per attaccare al mitra mia, all'ARA 48, al 68 dietro. Ho fatto portare quello, ho fatto portare queste antenne, ho fatto portare diversi tipi di apparati, mi hanno mandato come campione il Cobra, il Magnol S9, altri microfoni, di tutto mi hanno mandato come campione per vedere, per provare, per capito. E niente, io sono stato sempre appassionato di queste cose, capito? Solo che e rendono, io ce l'ho la 5000 turbo e rende quella che ho in camion, rende veramente, solo che costa 100 euro. Fatti Roger, tra l'altro ha detto con Fusaro mi stava chiedendo, Antonello, mi stava dicendo che a nome della, se andate a nome dell'associazione vi fa il 20% di sconto. Io non prendo la minima cosa da Fusaro, proprio la minima, perché quando mi serve una cosa, io ho contatti molto, perché conosco parecchia gente su cose, io mi serve un rosmetro, via, e ce l'ho, capito? E ce l'ho, lo pago molto di meno, capito? Mi serve un lineare, direttamente la ZG, capito? Io ho un amico, Gianluccio Barranautica, è 8 km dalla ZG, capito? Nella coordinata di Milano, è 8 km, lui va e me lo prende, e c'ha dei contatti degli amici lì, capito? E lo pago molto meno, lo pago anche io, un linearetto, che lo ho fatto arrivare un paio io, ho fatto portare un paio, e questo viene quasi ogni settimana. Adesso è chiusa la tensione, devo vedere per il primo oggetto il molo. L'avevo chiesto per fino a un certo il molo e sono andati fidi e adesso la ZG. C'è un risparmio da Fusaro a lì sul linearetto di Cavolo, di 100 euro, di 100 euro di differenza, capito? Da 280, da 280 che ne voleva Fusaro, a 180, portato qua a me, portato qui, 180 euro, ho fatto portare due. 100 euro di differenza, dalla ZG direttamente, dove si serve lui stesso Fusaro. Ma te l'ho detto, guarda, io non volevo essere uno scherzo, te l'ho detto, ti converrebbe aprirti una rivendita, Lo so, rivendita non è facile, sono in pensione, però io parati per le mani ne ho in giro. Quel ragazzo ieri me l'ha lasciato, l'ho consegnato ieri, quel ragazzo che ti ha contattato da Floag, quello mi ha lasciato un apparato a portare, ne ritiro, ne mando, io rimando, rispedisco, capito, se le svolgono tutti a me, capito, per queste cose, se le svolgono tutti a me, capito. Ma ti ripeto, che la cosa della Ringo è l'ultima delle antenne, che comunque se gli metti una buona base funziona. Costano una miseria, eppure è rimasto senza. Questo fa capire che non vuole guadagnare su queste cose, oppure non vuole aprire il mercato, capito? Sì, da poco mi ha contattato, non so se avete sentito, stavo parlando con questo scoiattolo. Questo scoiattolo costruisce antenne, ne costruisce lui, e ne ha costruito una e lo deve mandare adesso una a Pesca Fettiera, e questi giorni arriva uno, questo di Siniscola, questo ragazzo di Siniscola. Stavamo parlando al baracchino in propagazione, mi stava dicendo, questa è a Bollonare, questa antenna. Questa antenna mantiene un casino di fatti stesso e costa più di 100 euro ed è a Bollonare, la devi appollonare, capito? La devi appollonare a un coso è diversa da tutte le altre, è appollonatura, devi appollonare questa antenna. Non l'ho vista io, però la deve mandare qua in Sardegna, la deve mandare a Peppe Caffettiera, questo Cristiano di Siniscola, capito? Infatti la voglio vedere com'è fatta questa terra, addirittura c'è una presa d'aria che entra per raffreddare, perché tiene un sacco di watt, puoi mandare anche, non so, anche 20.000 watt, e c'è queste prese d'aria per entrare a raffreddare. Di Ruggero. Belle cose sono, belle cose, no? E in effetti questi della di Fusaro, poi da come è mancato lui, so che sono un po', hanno un po' di problemi di rientrare con gli investimenti. E comunque, Pomponio, ti sei addormentato? No, ancora no, sono ancora presa. Sono ancora addormentato. Anche se sono in piedi alle 5:30, 6, sono ancora solo e tranquillo. Dopo vengo la mattina della pipa, dopo che c'era altro, la verità. Stamattina ho mangiato veloce, alle 2:30, in 10 minuti ho mangiato da benzino, e poi direttamente alla ghiera. Poi sono entrato, ho avuto un paio di birre, e poi direttamente al posto. Anche dopo che ho fatto la spesa, sono venuto qua. Ho mangiato, e poi sono andato alla baracchina. Appena metto la papa, se gli altri lo faccio sapere, ci sono problemi. Tu con questa cosa che caldo freddo vedrai, ti viene una di quelle congestioni, o ti viene il cagotto o ti dobbiamo cantare la messa. E ieri mi ha fregato caldo freddo, mi sono mangiato il gelato io, ho fatto quella cazzata, sono stato tutta la sera male, non si mi dovrei male, siamo di qua, sembrava un moto piccolo, così era. Sono uscito a Carmano penso di 11 di notte, figurati, ho preso quasi 20 gocce. Tonello Barracuda, riprendila dai, facci sentire dall'alto qual è il tuo pensiero. Il mio pensiero, per franto di Pomponio, questa preoccupazione alla fine, che ci diamo la mano, ma io un pochettino riesco a contenermi. Poi alla fine se vuoi compagnia scaricare un po' la tensione, hai tanti apparati, puoi benissimo comunicare con noi e cerchiamo nel nostro malgrado di darti un po' di compagnia e conforto, ecco, siamo anche qua per questo. Tutto qua, un canale di omosessuali? No, perché se non lo è, Luca, vattene. Di cucci. Eia. Mi sentite ben ascoltata, io, caro neanche tu, dai. Ascolta, io c'ho la carta di qua, la pizza con le luci, la pizza con le luci, e quattro croci, e io sono un croccio. Luca! Ehi, ciao Antonè, ciao Bambù, ciao Lanzu. Ascolta, fa la cortesia, non è che un pochettino puoi abbassare un po' l'amplificazione, no? Abbassiamo, meglio va. E io ti ringrazio. È così potente, boh. Ma è una cosa strana. La gente che passava per la strada, sentivo. Da ventilatore, sì. C'è un calo qua. Si muore. Cosa hai fatto oggi? Io racconta la serata. Io non ho fatto proprio niente. Stamattina mi sono pitturato il portone della chiesa. Il portone del, vabbè, dall'altra parte, dall'altra entrata. E del resto niente, non ho fatto niente di che. Anzi, posso dire che ho riposato. Portone di che chiesa? Chiesa del Cuore Immacolato. A gratis perché sei, come si dice, religioso, baciapile oppure è pagato? No, pagato, è religioso. Ho pagato, la dolce va per i soldi. Non guardo le chiesa e le preti. Come mangio loro, mangio anche io. Ecco, ma riesco a dire che sono andati a meno d'ostia. Anche domani mattina ci sei. No, domani mattina no. State parlando in due comunque sia, non so chi era l'altro, avanti. Stavo chiedendo se sono venuto nessuno e andati l'ostia almeno. No, negativo, no. Beh, ma poi abbiamo terminato, abbiamo cominciato la bellezza di 2, 4, 6, 16 finestre. Cioè, sono 3, 8 coppie. Fuori abbiamo fatto le gratte, fuori sono 1, 2, 3, 4, 4 grandi, adesso stiamo iniziando altri 3 grandi, come sono fatto, 2 io, piccoletto, insomma, saranno 1 metro per 50, boh. Come sono fatto il titolato il come si chiama? Lo sportellone del contattore dell'acqua, che è grande. Adesso mi mancano 2 cancelli, di cui uno è dalla entrata di via Petrovica e l'altro di via Grazia Reggia. Quello lo farò sicuramente lunedì o... ma lunedì non ci sono. Mercoledì o giovedì. Grode! Santissimo. Grode! Gente, andiamo al balcone, prendo la portante. Oh, lui! Dimmi, Antone. Ascolta, lei sente quella persona per chiedergli scusa da parte mia? Attivo. Tanto mi hai chiesto di raccontarti la giornata, adesso mi stava facendo il cassettone, boh. A parte che non mi permetto, ma mi stavi facendo il computometrico, sembrava che alla fine mi facessi il conto, la fattura, che. Ammazzati di gloria. Quanta vernice hai usato pure? No, vernice poca. Poca, ho fatto acqua. Sprutto o a pennello? No, a pennello. Antirruggine l'avete usato? Cappa. Cartavetrato avete prima? Ma secondo me, mi ha dato anche il prodotto, come si chiama, mannaggia, non mi ricordo. Ho sveliciatore. Aspettate, in una volta, non si capisce. Lo sverniciatore ho detto. Come si chiama? Fer. Una cosa del genere, quello lì, sì, bravo. Abbiamo fatto quello, l'abbiamo lasciato asciugare una mezz'oretta e poi gli abbiamo dato la vernice. Che ora gliel'avete data? Come? A che ora? Ma non dire a che ora. Quanto ci avete messo a farla asciugare? Mezz'ora. Serenita avrete. Come? Vaffanculo, avanti. È un furtito. Vabbè, prima pure un furtubulo io. Ti voglio bene. Davvero. Antonio, ebbene, a Pompuno lo seguiamo. oggi? Dieci domani mattina, tu fregare a me stasera, ti vedo un pochettino male. La famiglia sta arrivando quasi la mezzanotte e poi si trasforma a Pomponi. E sei un pompon tu? Io mi volevo fare, ma la piena di birra fresca, ma non ci scende. No. State attenti, si blocca la digestione adesso. A quest'ora? Sì, a quest'ora proprio. La cosa ghiacciata si blocca la digestione. No, ma mica io andavo piano piano, non so cui di incordino. Piano piano lui. Positivo, positivo. Io non ne ho adesso sue. Qua la birra, se c'è la bevono, sparisce, capito, in 448. Capito. Devo fare il rifornimento, domani la prendo un po' di birra. Perché qua va, sparisce come l'acqua, la bevono qua. Yes. Beh, adesso che l'hai detto mi fa male, ma vabbè, insomma. No, penso che io ne sto bevendo un bel po', Tipo ieri me ne sono scolato due bottiglie, una pranzo e una cena. Ma che scelta con la bellezza, tu lo stai mangiando. E bacio, quella licnusa, saprei che no, nacchi, saprei che no. Gigi. E Yadi. Ma che birra bevi? E anche chi usa bevo, a dire la verità. A dire la verità invece la birra, non ho preso quella birra da lì, ne bevo poco, ma quella che la bevo me la bevo buona, mi piace buona la birra. Non la prendo quella da pochi soldi, non la prendo quella birra lì. Io compro solo birra buona, capito? Mi piace solo la birra buona. La Ceres doppio malto è buona, è fresca fresca. Ceres doppio malto. La licnusa non mi piace, a parte che ormai tutti quanti sono convinti di bere una birra sarda, quando invece già dall'84 è una birra che ha comprato la Heineken. Quasi tutte le birre italiane, sono di proprietà della Heineken. E la fanno a Macchiaretto, capito? La fanno a Macchiaretto quella birra lì, capito? La Ceres, proprietà, i soldoni non rimangono in Sardegna, quindi. La Ceres? No, la Mercedes, cosa si chiama Mercedes? Non la conosco neanche quella. Mercedes. E l'ho vista quella. No, non la prendo quella birra lì, non mi fa. No, se volevo dire Arturo, la Trichinusa la fanno qui in Sardegna, ma chi ha detto la birreria? Sì, la fanno qua, però la proprietà non è sarda. E la proprietà, a parte che se guardi la sede sociale, già la sede legale, c'è scritta in etichetta, è a Roma, ma è comunque di proprietà della Heineken. Sì, quello sì. La Dregen non lo so neanche dove la facciano, però la Dregen non mi piace più. Prima era buona quando la facevano, ma com'è? Allora era buona la Dregen. Però fammi capire lui, perché la Dregen mi fa un mal di testa, di cruce no. Che non la stappi. Che bastardo. Tu non lo so, ma tu la trappi pure, Non ce la butti la bottiglia, no, ma la giusti. No, la braghetta me l'attacco. No, adesso a parte di scherzi, può essere una questione comunque di contenuto, magari sei allergico un po' al luppolo, capito? Ed è diversa la quantità. Però te la ricordi Gigi? Prima la Dreher era in un formato da litro. Ma pare che sia ancora da litro. No, forse no, non qualche altra marca di birra c'è da litro. Sì, è da litro. Non me lo ricordo da litro io. Da litro c'era. Io mi ricordo, ma com'è, l'ho caricata qualche volta, c'è la birreria dove beviamo quell'acqua cattivissima, la fonte fria, la famara, la peggiore acqua che esiste al mondo. La facevano lì la Dre. Adesso vi dico, per una questione di, perché sto finendo una laurea in medicina, la peggiore acqua che esiste, e verrò denunciato per quello, è la San Martino, la peggiore. Perché? Tutta una serie di motivi, perché i vari motivi, comunque se voi guardate l'etichetta, leggete l'etichetta, è la peggiore, è quella che fa più male. No, io la San Martino non la bevo proprio, adesso l'ho caricato parecchio la San Martino, ma non la bevo la San Martino proprio, non la bevo, non bevo neanche la Tria, la Tamara, non la bevo perché acqua di pozzo non mi va, e non la bevo proprio, non la bevo, la carico, io la trasporto quell'acqua lì, ma non la bevo. Lui, io bevo la Brunella, pure fa bene. E se c'è una persona in ascolto non mi potrà che dare ragione, che se ne intende lui, perché ha un'acqua pessima, io non so come continuino a farla circolare, ma fa davvero male. Guarda che è un'acqua molto venduta, Antonio, molto venduta, soprattutto in bar, molto richiesta quell'acqua lì. Io per esempio, vedi, se tu mi metti bene, l'acqua Santa Lucia oppure San Martino, preferisco la San Martino. Anch'io, e poi fatto sta che è anche la più cara qua in Sardegna. Aspetta un attimino, la Santa Lucia è migliore. Allora vi posso dire una cosa, la San Martino come acqua gasata è la più bevibile a gusto di tutte le altre, e la Santa Lucia io la preferisco più della la Santa Lucia mi piace più della San Martino, anche se sono molto simile, la bevo meglio la Santa Lucia. Diciamo come acqua minerale, fatta minerale perché la fanno diventare, perché è leggermente cristallina, sua naturale, cioè, si mette più ne bevi più se ti mette la San Martino, c'è quel problema lì. Però gasata è buona, è meglio delle altre, perché le acque gasate, la San Giorgio, se quelle acque gasate non servono proprio. Lui, come diceva Luca, non è l'acqua molto venduta, è la più venduta a Sassari, in provincia di Sassari, da San Martino, assolutamente sì, soltanto che sembra che stai bevendo latte, perché vi ricordo che un po' di tempo fa dietro la fonte della San Martino c'era una cava di estrazione di oro, e l'oro si estraeva con l'arsenico, e comunque ci sono tanti di quegli elementi in sospensione, non ultimo metalli pesanti, che fanno davvero male. Io mi sento di poter dire, di poterla completamente sconsigliare quell'acqua. Ci abbiamo tantissime buone acque, quali la Smeraldina, che è ottima, è di Tempio, ed è una buonissima acqua. Guarda che c'è l'acqua da Billetta, se la vuoi, quella di Sozzo, quella è ottima. Ma te la sei bevuta tu da quando eri bambino, infatti hai visto. Quella non c'è tipo il latte, no, quella c'è tipo il vino. Questo residuo, vi ricordate Alto, ti ricordi anni fa le avevano chiusa per un po' di tempo la San Martino per quei motivi, ti ricordi? Figlia, ma Gigi, ti dico che c'è un conflitto di interessi, se no sarebbe stata già chiusa. Lo sai, io sapevo una notizia almeno 4 anni fa, Boni, la Smeraldina voleva acquistare la San Martino, però non capisco per quale motivo non si è andato in porto, diciamo, tutta la situazione. È uno andato là sopra. Piove. L'estate sopra, modulando. Anche quelli stare attenti, però, vi ripeto, la migliore secondo me in provincia di Sassari è quella, cioè la Smeraldina. Poi nel Cagliaritano ce ne sono molto più buone. Scusate un attimo a tutti, un attimino solo. Vi state ogni volta sovramodulando. Allora, conviene fare così, chiamate a nome, se no è un casino. Mi parla tu, ho sopravvato, non si comprende una mazza. Se io rilancio Antonio, non è che può riprendere Antonello, viceversa, io rilancio Antonello, riprende Antonio, no? Allora, cioè, parliamo o rilanciamo? Rilancio il microfono a Luigi, poi Luigi rilancia qualche altro. Non se ne capisce una mazza. State parlando uno sopra l'altro. Positivo, avete rilanciato a me. Allora, no, il fatto dell'acqua, sì, va bene quella, la Smeraldina. Guarda, ce n'è un'altra che è ancora migliore della Smeraldina, quella di lì alla Fumosa, di Portigiana, quella di Portigiana, sa, che c'era la Sisa, guarda, c'è scritto Sisa, quella lì da 2 litri che c'è scritto Sisa, quella è un'ottima acqua. quella è un'ottima acqua. Poi ricordati che le acque, no, tu prendi la Tamara, la Fria, la Elisea, capito? Poi c'è, cosa c'è? C'è Elisea, la Fria e Leonora, è sempre la stessa acqua, sempre quella di Marcomere, sempre quella qua lì, è sempre la stessa. Vai Antonio, rilancio Antonio Grotti. Ma se non sbaglio la Santa Lucia è invece di Bonorva, e di Bonorva è, ti ripeto, anche quella lì è un po' così. Mi dispiace che non ci sia in frequenza Claudio, perché Sbarbiero, perché lui fa le analisi e sicuramente avrebbe potuto illuminarci in materia, capito? E comunque riprendi Antonello Barracuda. E niente, la verità, io l'acqua la preferisco a San Martino, è buona, dopo il caffè una mezza gasata a San Martino è il massimo, e poi non sapevo che aveva, diciamo, queste problematiche. Comunque c'era questa signora che ha lavorato per anni a San Martino, ha buona una settantina d'anni, e lì per quasi tutta la sua vita ha bevuto San Martino, e è bella pimpante e continua ancora a berla. Quella lì, la verità, non so cosa dirti, è arrivato a un certo punto, è andata in pensione proprio lavorando lì. Poi non so alla fine se avrà un corpo resistente a tutte queste sostanze, ma non credeva che la San Martino aveva questi problemi, la verità. Avanti Pomponio. L'acqua migliore è Boschetta, perché sei contenta? Comunque anche mio nonno ha fumato fino a 90 anni e non gli è mai venuto il tumore, però ci sono persone che sono predisposte e a seconda di quello che buttano giù gli si scatena qualcosa che non è molto piacevole. Allora, Pomponio, tu non puoi dire delle rospine, qual è la fine? Ce l'ho qui, la sto bevendo. Becker's Beer, c'è scritto, guarda, senti. Ah, senti, è buona la verità, non è che sia cattiva. Meglio quella dell'Irlanda, la verità. Quella lì fa schifo, la verità. Ma non che non prendi quella limone, che non è buono lo stesso dell'Irlanda, però parlo, ballo, eh. No, ti ho chiesto quella sto bevendo anch'io, ma non è che sia vostro granché. Secondo me, guarda, non mi dare Heineken, non mi piace, non... è un saporaccio che fa schifo. Vabbè, è chiusa, vabbè, è fresca però, non ghiacciata, fresca. La bevo volentieri, se no, non è che la terra non ci scende, non ha un gusto diverso dall'inclusa. Poi guarda qua, buono, oddio, fresca, fresca, la devi bere questa qua, altrimenti fa schifo, questa Becker's. Le birre si dividono in vari tipi, che sono le Pilsener, le Ale, ce ne sono di vari tipi, a seconda della stagione comunque ci sono molto più buone, ad esempio le doppio malto sono da bere in periodo invernale, addirittura ci sono delle birre che sono anche di castagna. Quelle più leggere che sono le Lager, come può essere la Dreher, come può essere di Knusa, sono sicuramente più gradevoli perché ne bevi di più, non ti ubriacano, diciamo, non sono soprattutto pesanti e te ne bevi un bel. Però ci sono delle birre da degustazione, quale ad esempio la Ceres, ad esempio l'Adelskot, che sono buonissime, però te ne bevi una e sei già mezzo ubriaco perché hanno 12 gradi. No, aspetta, lì ti frego io, allora ti frego io. La due è rinchiusa, a volte ci sono dei margini di magazzino e quindi c'è la montezza. E che la compri che te la portano subito, va anche bene, è buona. Invece quando rimani nel magazzino ti fa male sia una che l'altra, anzi peggio ti fa. A parte ti fa incazzare, perché rimani incazzato la sera per niente. Si fa così, quel sintomo lì e poi ti va mal di testa. Capito, sia la due che l'inchinusa. Dipende da... Se prendi la birra fresca, se prendi la birra per dire che te la stanno portando dalla fabbrica al negozio va bene, però se rimane nel magazzino fa schifo, perché veramente fa schifo, è imbevibile, perché ti fa un bel male. Guarda, io ho provato birre soprattutto in Germania, sicuramente Gigino che c'è stato, o se c'è stato col camion, sa di cosa sto parlando. sono molto meno gassate, molto più bevibili e molto più buone. La birra in effetti va consumata subito dopo che ha fermentato ed è bevibile, nei primi 3-4 mesi, ed è una bomba. Subito dopo noi siamo abituati a bere birre morte che non hanno fermenti, capito? Cioè non hanno lieviti, i lieviti sono completamente morti, perché le birre crude sono buonissime, l'unica cosa è che ti fanno venire il cagotto. Ma tu? Io? Dimmi. Oh, Grotte, ti ricordi che avevamo chiuso la birreria che c'era qui a Silico? Quella con una durata di 3 mesi, no, neanche pure 3, no, di meno, neanche un mese ci aveva durata quella birra lì. Perché era da consumare subito, però era buona, costava qualcosa in più, quella birra mi pare, adesso mi ricordo, c'era un mese e mezzo di durata, capito, quel tipo di birra lì, costava un bel, però era un bel buona, non so se l'hai mai bevuta quella di Silico. Etichetta gialla che sembrava un detersivo, infatti era una vergogna perché era buonissima, però il tipo non aveva capito che la pubblicità è l'anima del commercio. Ci sono tanti micro birrifici qua vicino a Sassari, uno dei quali sta aprendo anche a Uri, ha già aperto e sta anche imbottigliando, che fanno birre crude, cioè sono birre che non sono pastorizzate. Pastorizzato non significa che è fatta dal pastore, ma che ha seguito un metodo di pastorizzazione da Pasteur, che era uno scienziato che aveva capito come mettere in atto un metodo di conservazione eliminando quelli che sono i fermenti vivi, quindi le appiattisce. Nel momento in cui le appiattisci non ha più quei fermenti che ti fanno anche bene, al pari di quelli dello yogurt, capito? Però microbirrifici qua in provincia di Sassari ce ne sono tanti, non ultima c'è una birra che si chiama Sambrinus, che è vicino a Muros. È positivo, positivo. Ho visto che un po' è studiato, no? Perché anch'io quando qualcosa ho dovuto fare si spiegava. Quando dicevano per esempio un nome nativo, no? Diesel, per esempio, Diesel. Diesel, chi ha inventato il motore a diesel? Era il signor Diesel. ha detto la stessa cosa. Ci diceva tutto, no? Quando facevamo quei corsi, quelle cose lì, per certi tipi di appartenenti, per la DR, queste cose così, l'ingegnere, quello che ci faceva la scuola, il coso, ci spiegava tutte queste cose, no? E tu con la vita stai dicendo la stessa cosa, perché si chiamava, ed è giusto, perché molta gente non lo sa, che quando danno un nome nativo a una cosa, è perché chi l'ha inventata quella cosa, che si chiamava così, capito? Anche la marca del manometro che gonfia le gomme, anche quello lì, c'è un marchio, adesso mi sfugge il nome, c'è un nome segnato, quello si chiamava lui, quello che l'ha inventato, si chiamava proprio con quel nome lì. La maggior parte delle cose, delle scoperte, delle invenzioni prendono un nome dall'inventore e dallo scopritore, però quello della pastorizzazione, siccome i pastori mettono in atto determinate cose per conservare il latte, si poteva pensare che il nome derivasse da quello che fanno i pastori per conservarlo, invece no, deriva appunto da Pasteur, che era uno scienziato francese che aveva scoperto appunto come conservare un certo tipo di prodotto mettendo in atto una certa procedura, che era quello di riscaldarlo a una certa temperatura e dopodiché farlo decadere di colpo, il calore bruciava completamente i batteri all'interno e quindi rendeva la sostanza neutra, o meglio non si alterava col tempo, dai. Sì, però questo era il contrario, questa birra che facevano al Silico, questa era senza, non aveva nessun conservante, capito? Era birra, questi lavoravano in birrerie e sono venuti dalla Germania, capito? Erano stati, ma erano in Germania questi qua, e lavoravano nella birreria, sono venuti qua e hanno fatto questo capannone per la birra lì a Silico, la zona industriale sotto di Silico, la birreria, però è durata poco, perché le bottiglie, come hai detto tu, c'era un'etichetta che si facevano desiderare, costava un casino di soldi questa birra, però, no, e poi la durata era poco, e la durata, non voglio dire, detto una minchiata, ma non durava più di un mese e mezzo questa birra, era a breve scadenza proprio perché non aveva conservato di nulla, ed era una birra sana e buona, io l'ho bevuta tante volte, costava un po' di più, l'ho bevuta perché ce l'aveva lì a Cremole al bar da Giovanni, a volte per curiosità ce la bevevamo una di quelle birre lì, capito? E lui ogni tanto passavano in giro, loro le controllavano nel bancone che non ce ne rimaneva qualcuna, a volte dietro, in frigo, che era scaduta, capito? Perché aveva poca durata, guarda, non mi ricordo, non superava il mese e mezzo quella birra lì, la durata. È vero, ma se tu guardavi nel fondo di quelle bottiglie c'era anche del lievito di birra di deposito che ti faceva capire che era proprio birra cruda, con i fermenti ancora vivi. E quelli là, se non si inacidisce, proprio devono stare in frigo soprattutto e non dura più di un mese e mezzo, hai ragione tu. Tu immaginati che quello lì è stato il primo stabilimento qua in Sardegna che aveva l'imbottigliatura dopo le grandi marche come l'Heineken, come la Dreher, aveva comprato con i soldi della Comunità Europea una catena di imbottigliamento da 200 milioni di allora, e poi aveva fallito, come abbiamo detto tutti. Capito? Però sì, quelle lì sono le birre che ti fanno digerire, sono davvero buone, che hanno un alto contenuto di lievito di birra. E positivo. No, perché allora l'avevo chiesto io, no, questi qua, ma hanno detto, no, dice, noi dice, lavoravamo, siamo sardi, ma lavoravamo in birrerie lì in Germania. Poi hanno pensato di trasformarsene nuovamente in Sardegna e fare una distilleria qui. Però è durata poco, lo stabilimento c'è sempre lì, però è fermo, non la vendita non è andata molto come doveva andare, capito? Perché avendo poca durata non poteva spedire da nessuna parte, tranne qualche bar, così la prendeva, e poi non sono tutti oggi quelli che stanno al bar per birra, bevono, non vedono molti, voglio dire, cercano di bere quella che è meno costosa, quelli che ne bevono tanto e stanno lì tutta la sera bevendo birra, cercano di bere quella meno costosa, capito? Capo, glielo so, ma io avevo comprato anche un periodo il kit per fare la birra, capito? E guarda, male che ti esce sempre meglio di quelle commerciali, capito? Ti è buona se c'è un certo tipo di sapore, poi è bella perché comunque sembra sia difficile fare la birra, invece è molto più facile che fare il vino. Sì, io poi sai che qualcuno lo sa di quali stazioni, che io sono quello che faccio il mirto, i liquori, sono quello delle salsicce, del cose, e ne faccio a volte vino, e anche liquori faccio molto io, ne faccio veramente, e un po', sai, però sempre chiedendo consigli, a volte vado in queste distillerie, a volte vado da Murgia, la sezione menale Murgia per la cidra, gli porto la pomice, la pietra pomice per i mirti, che lui fa mirto, fa quel liquore Murgia, non so se l'avete mai letto, quelle bottiglie che a me non piace, fa anche il mirto, ma non mi piace neanche il mirto, c'ha tutto un paio di cose di mirto proprio, e fa liquori questo Murgia, la sezione menale. Io ci vado spesso e lui mi ha detto tutte le ricette per farmele a casa, i liquori per me, e io me le faccio ogni anno, e Luca l'avrà gustato tre volte il mirto che faccio e qualche altro liquore, dai. Antonello Barracuda. Barracuda. Giacotto Barracuda. Da Pomponio bisogna portare per forza Gigino Vulcano, così arriva con qualche liquorino di quelli fotonici. E tu Luca, cos'è che bevi? Diamo una tacca fente, no? Questo è per nulla, questo. Tutti cotti sono, a furia di parlare di cose, di birra, sono tutti imbriagati. Ti ho portato 30 litri due anni fa a Borgomanero, di mirto, 30 litri, mi sono imbottigliatolo. Bottiglie da litro e mezzo, ne ho portato 30 litri a Borgomanero. A riunione, quindi ne avrei omaggiato a tutti i colleghi. Farito il giro di mezz'ora, il giro di cosa, no? In mezzo ai 400 eravamo, cosa dura? C'era un break in fondo, avanti amico. Dico, chi c'è rimasto? Yeah, abbiamo fatto una strage. E con questa birra e liquori si sono tutti sbronzati. Pomponio ha bevuto la birra fresca, Luca lo stesso, e sicuramente l'ha fatta accusa a tutti e due. Direttamente. Avanti, barra e cura, aiù. Dimmi, scusate, mi sono sentato un attimino, dimmi tutto. Stavo dicendo che ti sei perso, spero di no, il racconto di Gigino, che è un ottimo distillatore, quindi se dobbiamo fare la cena o pranzo che sia da Pomponio, assolutamente ci deve essere. D'obbligo, veramente d'obbligo. Dunque, organizziamo per domani. Dunque, Pomponio compra sardine e noi usufruiamo del suo appartamento e Gigino porta il suo distillato. A me va benissimo, dovrebbe essere una bella serata, Sì, non mi ha chiesto quando una cosa, ma c'è tutto unico e compro io un po' di... aspetta un secondo. Lui lo invitiamo. Invitiamo a Pomponio, no? Non ci fa niente. Pompo, lasciaci le chiavi sotto il coso, sotto lo zerbino, futtidini, tu vai in giro. Da non ti toccare, madonna, con questo computer, sempre attaccato al computer guardando cose zozze. Luca! Faccio un attimo di bianco, io le prendo subito. Va, avanti il fischio. Avanti il fischio. C'è un tuo dubbio che hai avuto modo di parlare con quella persona, no? Non ti ho copiato, abbassa un attimino, neanche tu sei pompato, perché stai arrivando talmente forte. C'era sicuramente come ha toccato Patrizia, aspetta. Cighin, bene va adesso. Ma dirò, già adesso sei una persona normale, dilla. Così va meglio, sì. Ti volevo dire, se hai avuto modo di parlare con quella persona, per dargli le mie scuse. Negativo, non ho avuto modo, ma credo domani o dopo di incontrarlo. Va bene, bene, benissimo. Ascolta, è per quella risposta che stavamo parlando molto prima della modulazione, te la deve dare qualcuno? Ho detto, una è negativa per adesso, fra l'altro l'ha specificato per adesso, quindi lo dice, a me non mi va di illudere nessuno. È stato molto onesto, cioè, però in questo momento c'è un po' di crisi, parte dal presupposto che questo fa tutto, che io ogni tanto andavo a collaborare con questa casa della fraterna solidarietà, che è quella che dà i pasti, cioè non i pasti, la spesa, fa la spesa ai meno abbienti, lì dove c'è l'ex questura, dove escono la carraia della questura. E tu immaginati che dà ogni giorno 300 kg di pane così, in beneficenza. Quello sono, già ho capito quale stai dicendo. Ma per l'altra cosa, diciamo, per l'altra opzione, ti dovrebbero dare qualche risposta, sia positiva che negativa, ti dovranno tenere informato in questi giorni, o quando è? Ma di Roger, quello lì invece è un morto di fame. Perché quello lì cosa fa? Da tutti i funghi di magazzino che ha, soprattutto la roba in scadenza, se ne libera, siccome la dovrebbe buttare, invece nel momento in cui la dà a questo tipo di associazioni, lui si scarica tutta l'IVA, cosa che invece non riuscirebbe nel momento in cui gli va male, quindi da verdura semiguasta, prodotti in scadenza e chi più ne ha più ne metta, però chiaramente nei confronti di persone a cui deve qualcosa, si comporta, diciamo, bene. È perfetto, ma volevo dire, comunque qualcuno ti darà una risposta, un sì o un no. Ma dirò, è che devo aggiustare un attimino quella cosa che mi hai dato per fargliela pervenire un attimino più fruibile. Ho capito, allora aspetto con ansia una notizia. Te la da solo, è meglio. Senza ansia. Avanti il bip. Se capisci che cosa è questo. L'asciugamano quando spalmi dietro e la schiena pezzo di tipo di castrame. Per carità. Attenzione, Luca. Attenzione, Luca. Tu che spavi questi. Pagava Gaba di Roger. Anche io vi saluto e vado un pochettino a riposare, dai. Ci sentiamo domani nel caso. Buonanotte a tutti, così non dimentico nessuno e ci sentiamo domani, dai, buonanotte. Ziglia, lasci gli amici così. Lo so, ho bisogno di distendermi un po'. Tranquillo, dai, Natale, buon QRT, buon 144, è cordializzato da questa parte da Antonio Grotte. Avanti Antonello per i saluti. Ciao Antonello, ci sentiamo, sta ben bene, buonanotte, buon tutto. Alle prossime buona distensione. Ti ringrazio, comunque Antonello, per il fatto delle sardine, vediamo un po' di organizzare, un po' di andare dell'altro. Secondo te ti preoccupare, lo sai. Quando devo organizzare per me è proprio di stanno a vostra disposizione. Io ho il giardino, c'ho un bel salone, quindi possiamo organizzare quando volete, dipende da voi. E vabbè, proprio il fatto di avere dell'altro, dai, è tutto quanto, capito? È positivo, non c'è problema. Ok, dopo ce ne stanno. Ho capito, ma già ho capito, dai. Maledizione, non ci riesco. E ricordati adesso a parte gli scherzi, Antonello Barracuda, domani di darmi quella copia della fatta. Copia? Bassa giù. Puoi insegnare a babà a fare i bambini, oh via. No. L'onore ce l'ho io, mi dispiace in questo caso, tanto è già un orario abbastanza avanzato. In paese, ho penso un po' tutte le parti ancora così. Integrare e pagare, imparare a babbacodare. Esatto, la stessa cosa. Io sono il maestro della supercazzola. Vabbè, ognuno si tiene le sue particolarità. Va bene, buonanotte, ci sentiamo domani allora. Buongiorno, ti presento anche Fan, che è bravissimo. Chi non mi freghi? Chi ti frega questo che lo fiumi? Provare così, tanto me. Prega le pedate che prende, da me da questa parte, ma così ne accorge lui. E il tempo alle cose, bisogna prima imparare bene le persone a conoscerle. Imparare i loro lati negativi, poi vedrai che li pungi, manco se ne accorgono. Yeah. Non voglio avere la palla, Antonio, grotte. Dentro la palla voglio avere Ussini. Mi fa. Che qualcuno ha detto, tiro lo scappellotto e ci si dentro dentro la. Come si chiama? Dentro la brutta cesse. Aia. Una cosa. Aspetta, vediamo se è entrato Gigino Vulcano, si è rientrato e lui è andato a stapparsi una birra. Ui ui ui, lello, mi devo aggiustare la capota della macchina. Qual è il problema? Troveremo cosa, un buon operaio del sistema e si è a posto. Io invece penso a sistemare l'antenna. Adesso vediamo un pochettino, se domani io voglia, tu lo facciamo, ne scendo la terra in terra, tu rimani di qui come si vuole, così me lo pigli scappellotti, controllo le statuarie, io salgo sopra il tetto, faccio la regolazione dello stubo. Poi quando scendo, a parte c'è il tavolino con la birra fuori, ti bevi la birra ogni tanto. Se poi sgarri già c'è il passo terrazzino, tipo boiosso, non c'è problema. E fatto un certo la penna, non sa niente, è caduto. Scusa, non fai prima invece che tirare giù il palo. C'è Simonetta. Simona, non Simonetta, no? Mi ha tranquilla, si vuole non preoccuparti comunque, se stai pensando che è tutta Maria, è tranquilla, quando la conosci bene, anzi scherza, quindi non preoccuparti, è una tipa tranquilla, avrei voluto così, e lui dice che la sopporta. Figurati, poi stato così, lui ci sono adesso che vogliono un sacco di cosa. Però vai già lì, tranquilla. Ma se li incontri certo di sasse, mamma mia, non è meglio lasciare le persone che la sua. Ma cazzo, ma è portanti come Falcone stai facendo? Ti stavo dicendo, Simona, per quanto è alta? 1,78, 1,80, se alza la mano sarà regolata sola senza tirare giù l'antenna. E tu stai sotto, che è meglio, a bere birra. E comunque, se tu contatti Falcone, guarda, ti prometto che gli compro baracchino e antenna per rimodulare. Ma prima la vecchia non ho fatto nessuna di quelle cose, comunque ho contato con una persona che c'ha il baracchino in barca, anzi c'ha il baracchino in barca, la verità, è il fratello di Giuseppe Leoncino. Gli ho detto di ripensarsi tutto, mi ha detto se c'è gente che fa il baracchino sono di piazza. E quindi mi ha detto che lui si ripensa il baracchino in barca e quindi ci abbiamo una persona in più. Fa parte dell'associazione, poi adesso vediamo un pochettino di inquadrare altra gente, mi sto facendo, cercando gente per poter far entrare a baracchino, voglio entrare a tutti i vecchi che conoscevo io, che entravano a baracchino, che quando entravano ti divertivi, quindi a uno piano piano, adesso vediamo, se facciamo una bella ruota, guarda che siamo almeno 15-20 persone per come si deve, facciamo una bella cosa, la verità. Adesso bisogna che io busco un ragazzo che lavorava a San Martino, che c'era la sorella per la baracchino, qua vicino. E mi ricordo il cognome, ma non mi ricordo più le cose, se abita più qua o se si è sposato, adesso fa tutti già 5-6 anni, anzi 10 la verità. Adesso vediamo un pochettino, se riesco a intacciarlo gli dico di ripetere tutto, almeno facciamo una bella situazione come si deve, con un pochettino di come pure di iscritti, me lo auguro, guarda, la verità me lo auguro, poi facciamo entrare un pochettino di gente che magari è di Firenze, perché quando entrava a locale si bisticciavano con l'altro. Voglio farli rientrare, tutti quelli che parlavano con, su 14, la verità voglio farli rientrare. Vediamo quello se ci riesco. Che l'appello prima, la verità c'è una bella donna su 14. Ci divertivamo, scherzavamo la verità, però era veramente bello. Voglio fare come prima, negli anni 90. Voglio scoprire il nuovo anni 90 come una volta. Persone come si deve, giocate, scherzi, nessuno si offende e facciamo una bella cosa. Di Roggero, Gaba, io vedi invece ricordo molto di più gli anni 80, dove era pieno di maleducati e c'era un bailame che era a metà passata. Non sai cosa facciamo in questi giorni, andiamo a Rossi. Esattezza, telefono nel manicomio, telefono a lui, andiamo a casa sua, convochiamo a lui, convochiamo anche gli altri che ci sono di Rossi, se vogliono rientrare, vediamo cosa si riesce a fare, se facciamo qualcosa di buono, guarda, facciamo 13, chissà, io ci credo sulle cose, chissà che si ci che facciano anche qualcosa anche gli altri, la verità. Sera ho trovato il fratello di Giuseppe e mi ha detto che voi ripetete il baracchino in barca, perché dice io ho staccato il baracchino in barca perché non c'era nessuno, la verità dice 27, io dico guarda che ripeto tutto perché sulla 27 ci siamo detto parecchia gente, c'è il sito e dopo gli faccio conoscere il presidente e tutto lo porto qui e parli con lui, gli ho detto. Di Roger, ma guarda, se dovesse entrare metà della gente, cioè metà delle persone che hanno sul tetto ancora l'antenna, sarebbe piena la frequenza. Ogni volta che vado a Latte Dolce ne vedo almeno 6 o 7. E poi sono tutte Mantova, belle antenne fra l'altro, che si sono dimenticate sul tetto e che hanno comunque retto all'invecchiamento e si possono sicuramente riutilizzare, capito? E io penso una cosa, forse mi sbaglierò. Se organizzo io penso di essere un numero garanzia, ancora. A parte quello che c'è stato, che mi sono divertito nelle passate, i canali europei, a me e anche a tanta gente, sono sicuro di così. Se organizzo io e c'è gente che conoscevo da prima, io penso che la cosa si riempie di nuovo, però sto dicendo. Adesso vediamo di recuperare un po' di gente, ci facciamo un giro, tanto con calma in macchina, andiamo piano piano a casa di con come fa Obama, facciamo di casa in casa per la politica, noi facciamo così. Andiamo di casa in casa, cerchiamo di ricordarci dove abitavano, nome e cognome, e andiamo ci presentiamo di lì. Vediamo cosa vuol dire, se vogliono vuol dire attaccare, quello che è. Non costa niente attentare, la verità, non costa niente. Vediamo cosa ne esce fuori. Magari ne uscirà una cagata per dire, però se tale una voce, io voglio fare così. Un po'. Brava, d'accordissimo. Ma intanto guarda, prima manifestazione che portiamo avanti sarà a fine di questo mese, quindi da fra 10 giorni inizierò a fare pubblicità, faremo il mercatino dell'usato. Già ne ho antenne, ne ho meno 70-80 antenne c'è la di macchina, bisogna perché oggi da Mario Higre, c'è la cosa che da lui e ho detto che le poi il lavoratore ha poi una e trovate nella busta, no il fatto della busta mi ha detto lui, no che sono due, no non ce la fai la violetta, sono una busta basta, impolverata, qualcuno se la prega, sono una busta basta, se ne vedi così magari poi pensa non lo so, siccome c'è le antenne che sono ostili adesso in questo momento. E poi i cabretti sono in un altro scatolone, quindi adesso devo recuperare il scatolone sabato domenica dalla Santa Maria, mi porto tutto su e faccio le antenne complete, capito? Con capo e basetta. Di Rogero, ti stavo dicendo, no, dobbiamo mettere nella condizione anche chi vuole iniziare a modulare, a iniziare con pochi soldi, nel senso che ora come ora se compri tutto nuovo, guarda, considerando che una Ringo ti costa 38 euro, un alimentatore da 3 ampere ti costa 40 euro, e dopodiché un baracchino te ne costa 60, diciamo che con 150 compreso il cavo puoi iniziare a modulare con una stazioncina minima, nuova, tutto nuovo. Se vai a vedere cosa spende, se uno vuole comprare l'usato e lo dobbiamo mettere in quella condizione, dove deve iniziare a modulare con 60-70 euro, capito? Il problema è quello. I soldi che puoi pigliare uno alimentatore da 2 ampere, 2 ampere e mezzo, a seconda mano, mantenendo di macchina limite, e un macchino. Quanti posso essere 34 canali, quello che è 34, anche 40, quello vecchio, ci va anche bene, la verità, per iniziare, poi in seguito se gli piace la cosa, come ho fatto lui, d'altronde, si spende di più, si può sempre una operazione base, una mantova, una lingua, una gambrini, quello che è, hai capito? Ma guarda che questa Ringo con messa di piano di massa con i radiali sta uscendo a bomba, io sto uscendo adesso con una stazione davvero ridicola perché ho uno ZG da 2 ampere come alimentatore, il baracchino è quello che hai visto, quello piccolino dell'M120 della Intel, e dopodiché fuori ho la Ringo, sto uscendo pulito eppure mi permette di modulare. Ora, come associazione, nel momento in cui acquisiamo anche gli usati, possiamo dargli in comodato d'uso alle persone che vogliono iniziare a provare, chiaramente mi metti una firma prima di prendere la roba, te lo prestiamo per una settimana, se dopo una settimana ti piace ti metti nella condizione di iniziare a comprarti la roba, altrimenti veniamo, te le ti ritiriamo tutto e ciccio. Come fai così? No, stai scherzando tu? Si può fare una cosa che è comprato giù? No, non va bene la verità. Troppo rischioso, non tocca. Il comodatoso non sto facendo lo scaglio. Hai capito che se ci rimetti delle conoscenze parecchi, inizia a recuperare in altre cose, non si può fare in comodatoso, l'ho detto. L'unica cosa è, come ti dico io, no? Quando avremo la sede, si portano le persone lì, si fa fare la scuola una settimana, come si può fare anche per il patentino, per dire, per la moto. Si mette una persona a usare l'apparecchio, si spiega come si usa e poi lui vicina, cioè per dire delle ditte che a noi ci forniscono tali prezzi, lui prende, si compra l'apparecchio, si compra l'alimentatore, si compra anche l'antenna. Se gli piace, se no pazienza. Ma cosa di un apparecchio incomodato l'uso? Se poti bruciare, ma stai scherzando, no? Non va bene Antonio, la verità. Io la penso così. A me è meglio, infatti, per il piccolo che ti sto dicendo io. Una volta che noi ci abbiamo, che troviamo la sede, prendiamo quello che c'è da pagare di affitto, quello che è, si installa l'antenna, si spiega alle persone che vengono lì nella sede, gli facciamo fare una settimana di prova, anche una settimana di prova, quello che come si usa, si spiega come si usa l'apparecchio, come si parla e come si fanno i collegamenti a distanza, quello che è. Se la persona gli piace, ci sono tale ditte che non ci forniscono gli sconti, loro vanno con i soldi propri, quando si comprano la roba, ma stai scherzando. E io ho l'apparecchio mio, e arriva di Tuggia. No, aspetta. Allora, l'idea che hai detto, che hai esposto, è ottima. Ne avevamo già parlato, non so se ricordi. Quello di fare lezioni e cose del genere assolutamente farà parte integrante della vita dell'associazione. Però se tu metti a disposizione, ma ti sto parlando di catafalchi, quelli vintage che hanno 34 canali, ognuno di noi ha baracchini che non funzionano, cioè funzionano e non funzionano, vanno bene. A una persona gli fai firmare un foglio, innanzitutto deve essere per forza un associato, dopodiché gli fai firmare un foglio e cosa si frega? 40 euro di roba, se c'è anche. A parte che non è così, perché vai e glielo porti via da casa e gli dai anche due schiaffoni, però lo metti nella condizione di, anche perché i QSO sono belli e piacevoli quelli fatti di sera, e non è che tieni l'associazione aperta, la sede aperta anche fino a mezzanotte. No, sto parlando di quello, non è Antonio. La sera rimane aperta, le 8 di mattina e il finale, per dire, le 8 di mattina e le 9 di sera, poi basta, per il momento. Quello che facciamo, quello che c'è da fare, si spiegano le cose come stanno, si spiegano come usare l'apparecchio, anche l'educazione, come parlare, cose del genere. Dopodiché, se riuscite di usare il CB va bene, se no pazienza, ma se lo fai tornare in un apparecchio poi non te ne torna più, no, assolutamente. No, non fa, hai capito? Per come la penso io, guarda, io posso dare per dire nella sede quello che vuoi, un 2009, anche che io non mi posso portare per dire. Mi faccio vedere mi insegno come si parla, come si usa con l'apparecchio. Hanno l'omologato. Sono vicinando cosa pigliarsi. Non è che io devo regalargli per dire un barattino 40 canali, 34 canali, quando non, già non ho soldi io, devo dargli a lui, no, non esiste, no. La breccia. A meno che non ci pigliarsi per dire qualcuno dall'esterno, allora sì, si forniscono gli apparecchi e si danno incomodato l'uso, allora sì. Però no, ce la faccio a dire un barattino a uno che Marco conosco, poi non lo vedo più, no, non esiste, no. E ora siamo qui a Skype, la maggior parte non vede i ricevitori. Io la penso così, Anto. Beh, i soci finanziatori ci sono già. Tu si può fare così al limite. Tu lo dai incomodato e gli fai depositare una somma che è al pari del valore del baracchino. Nel momento in cui lui dovesse decidere di tenerlo, la somma viene integrata, quindi è come se lui l'avesse comprato. Nel momento in cui non lo vuole tenere, lui chiaramente prima controlli quello che ti sta restituendo, se l'ha sfasciato, se non l'ha sfasciato. Io credo che tu sia nella condizione di capire se un baracchino è danneggiato o meno. Gli viene restituita paro paro la somma, magari togliendo 10 euro per l'utilizzo, l'affitto dell'utilizzo, basta. No, stai sbagliando così, Anzo, stai sbagliando un bel. Stai sbagliando un bel, però così, non fa la verità. Io la penso diversamente. Chi vuole stare con, cioè imparare con noi, viene in sede, usa l'apparecchio, fa quello che vuole, non ci frega niente a noi, imparano, noi impariamo come fanno tutti quanti, dopodiché se lui gli piace, ci sono ditte proposte, per dire, affiliate a noi, dopodiché ci sono gli sconti, lui va, si compra l'apparecchio, si compra l'antenna e facciamo il kit completo, come fa Sky, per dire. Come tipo popolamento, come fa Sky? Bene, cavo, antenna, alimentatore, quello che serve, e se ne installa da solo. Non c'è bisogno di che ci vogliono tecnico per la sua, no? Io imparo io come si fa a tenersi l'antenna, contro la sensazione aria e cose del genere, capito? Uno deve essere in grado di essere tranquillo in casa sua. Beh, si baracchino, se ne installa e è a posto. Non si fa usare un mese, anche 2 mesi per dire, quello c'è. Si impara a usarlo. Non guardi un baracchino, ce la fai. No. Facciamo la parte d'Italia, non saranno. Beh, ci direi che mettiamo a disposizione il tuo Kenwood. In modo tale lo prestiamo. Chi vuole imparare col tuo Kenwood, l'ho cagato tutto quanto e poi te lo prendi tutto in fasciato. Tu vuoi lo piglia che vuole così una persona, cioè per comprare ci sono io prima, già lo sai, quindi non è come pensi tu, a fotti dinni. Il che vuole bene rimane tranquillo, perché il qualche volta l'ho portato anche in laboratorio, e lo faccio anche io. Anto, questo sto dicendo, quindi se uno si ricorda di dire che vuole cosa del genere, a parte mi potete le mani che volevate appresso. Se lo sarà nel baracchino, viene in paro, giusto? Guarda da questa frequenza, sono 40 canali. Da qui non puoi fuggire. Ci sono queste modifiche da fare. Se vuoi essere fuori dal coso, ti a fare questo e quest'altro. Dipende dalle cose tue. Poi ci sarà al limite i moduli per farsi la concessione, quello che è. Sopra di su, sopra di me e degli altri, capito? Il capo solo di tu non è a casa mia, no? A casa sua, me lo vai? No, a Macco. Padre Rogero, mi sa che si è fatta ora però, fra un Macco e l'altro. Quindi ti saluto, ti auguro buon 144 quando lo farai, buon QRT quando lo farai, perché adesso rimani da solo qua a parlare. Saluto tutti gli ascoltoni, tutte le persone che hanno fatto un QSO stasera e che sono magari in quei RIS, e ci sentiamo alle prossime. Ben sentito, ben ascoltato e alle prossime, dai. Ciao, ciao. Quando ciao, Marco, ci sentiamo. A domani. Farò già, prepara la graviglia. Sempre proprio in garage, lo sai, non c'è problema. Tu vedi che ti appuschi, già lo sai. Abbiamo bisogno di schiaffare il momento. Domani passa, così ci prendiamo almeno il caffè. Allora, la mattina. Anche la ti alzi. Alle 4 del mattino, e a mezzogiorno, dove ti alzi? Alle 9, dai, domani. Che è presto, devo alzare presto. Di solito mi alzo alle 5 del mattino, figurati tu. Va bene, è un buon orario, vedi? Allora, fammi lo scritto perché io non ci ho credito, Aldo. fare lo squillo e così ci vediamo direttamente qua a casa. Offro il caffè, quello se vuoi. Poi andiamo da Fusano, chiediamo cosa potrebbe fare per gli associati. Ci si scrivono se c'è qualche sconto, se non c'è qualche sconto, capito? Solo per quello. Se vuole guadagnare cosa abbia in culo, ci chiamate ditte. Ci sono su internet, no? Brava di roccia. Va bene, dai, a domani mattina ti faccio consiglio appena sono in condizione. Buonanotte, ciao ciao. Ciao, domani. Buonanotte.